big chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, clickety click, a stick chick. The hot heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety clicker stick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she's what makes me tick. Mama. Clickety click a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick. Mama, I stick a chick. Ah yeah, a stick chick. Mama, clickety click a stick chick. Benvenuti, benvenute a una nuova puntata di Slick Chick, sempre su Radio Wombat, Wombat Radio, ovviamente. Da queste ancora non frequenze, ma comunque diciamo online sul web. Se ci state ascoltando in diretta, lo apprezziamo un sacco ed è saprete bene che è mercoledì 31 maggio, ultimo giorno di questo maggio del 2017, altrimenti se ci state ascoltando in podcast, chissà. Sono le 21:18, stiamo iniziando un pochino in ritardo, ok, ma per farmi perdonare, vi annuncio subito che stasera vi allieterò con una puntata dedicata a un tema abbastanza godibile. Dopo le fatiche delle scorse due puntate, che vi ricordo erano dedicate a David Lynch, a tutti i suoi incubi e i suoi brutti sogni e cose inquietanti, ci riprendiamo un attimo parlando di cibo. Cibo, cose da mangiare, cose che si commestibili, insomma. E beh, sì, direi che c'è un bel po' di musica da farvi ascoltare, cose veramente varie e diverse tra di loro, ma iniziamo subito. Vi ricordo intanto i social Wombat, il sito wombat.noblogs.org, da cui sarete arrivati fin qui, immagino, la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook per le persone banali, facebook.com/radio-wombat-firenze, e importante, la casella mail posta wombat@insiberia.net, dove vi ricordo potete scriverci, anzi dai, scriveteci e fateci sapere cosa ne pensate di questa radio, dateci consigli, eccetera, eccetera, eccetera. Sul sito ovviamente trovate un po' tutto il palinsesto, iniziano ad esserci delle prime defezioni per l'estate, la revancia, ahimè, ci saluta e tornerà a settembre, beh sì, d'altra parte l'estate i punk lavorano, non si riposano, ma lavorano e quindi purtroppo non possono fare radio. Ma insomma ci faremo perdonare aggiungendo anche nuove trasmissioni, lo vedrete, ma non vi anticipo niente. Cominciamo subito appunto con il tema di oggi, il cibo dunque, e cominciamo da Chuck Berry. Chuck Berry, il mai troppo rimpianto, con un pezzo che si chiama Fish and Chips, giusto per rimanere sugli standard del cibo anglosassone. L'album è Back Home del 1970 ed è un po' l'album del ritorno alla Chess Records dopo anni passati alla Mercury. Ci sono non tanti aneddoti legati al cibo che riguardano Chuck Berry, ovviamente, forse anche per fortuna, ma è interessante sapere che una volta Chuck Berry, molto goloso della cucina del sud degli Stati Uniti, peraltro, e un po' lo capisco, aprì un ristorante nel Missouri chiamato The Southern Hare. Pare che però a un certo punto si scoprì che aveva piazzato delle videocamere nel bagno delle signore e che registrasse tutto. Il nostro Chuck Berry era un po' un personaggino così, un tipino un po' bizzarro, ecco. E ovviamente poi si venne a sapere, grazie alle dichiarazioni di un'ex cameriera che disse: beh, vi devo dire che succede queste cose nei bagni delle donne. E Chuck Berry fu ovviamente, riuscì a cavarsela in realtà abbastanza bene, ma fu costretto a risarcire le malcapitate che avevano subito questa cosa da lui. Quindi ascoltiamoci subito Fish and Chips e pensiamo ai bagni del ristorante di Chuck Berry. Fish and chips, a little cork in you, oh babe. A honey drips, two more to go, oh babe. Let's go on back. The trip will be groovy, oh babe. Jump in the sack and flip your mood, oh babe. Come to me, I really do love you, oh babe. Honey, honey, a honey drip or two, oh babe. Love you before, I love you a long time, my love. Loving you more, and then I got to have more of. Fish and chips, a little cork in you, oh babe. Honey drips. Let's go on back. The trip will be groovy, oh babe. Jump in the sack, flip your mood, oh babe. Rieccoci, rieccoci di qua, sempre negli studi nascosti e segreti del Wombat Radio e sempre su Slick Chick. Beh, continuiamo direi con un pezzo che è un pezzo veramente bello secondo me, che è degli Addicts, si intitola Chinese Takeaway, l'album è Sound of Music del 1982. In questo pezzo gli Addicts, gruppo storico del punk, dei drughi inglese, beh, lo conoscerete. Gli Addicts in questo pezzo vagano in cerca di cibo e non riescono a trovare il posto giusto. Niente fish, niente chips, appunto, di qui sopra, niente hamburger, non c'è niente di meglio di un takeaway cinese. Pezzo che dedico anche a Gino e a Nenia, che come ben sanno essendo vegani, non, cioè il takeaway cinese spesso è l'unico posto, isola di salvezza, dove si trova qualcosa da poter mangiare, appunto, dove non ci sia carnazza e derivati. Quindi con questa gioia nel cuore, ascoltiamoci Chinese Takeaway. E con questo gong dal sapore un po' razzista, veramente, ma vabbè, continuiamo sempre su questa ondata mangereccia con un gruppo che direi è perfettamente adeguato al tema di quest'oggi, che sono i Cibo. I Cibo sono un gruppo torinese il cui primo disco risale al lontano 2005 e hanno mutato forma negli anni molte volte, in realtà. Devo dire che sono capaci di mutare forma anche all'interno dello stesso disco e volendo anche della stessa canzone. Insomma, non puoi mai sapere cosa aspettarti. E questo pezzo che ci ascoltiamo, sempre dall'album incredibile del 2014, è Pantaloncino Fresco. Quindi, vabbè, non sai cosa aspettarti, ma a sto giro aspettatevi un pezzo che vi racconta la necessità di un vestiario adeguato all'estate e al caldo che sta arrivando. Penso che la parte maschile che ci sta ascoltando capirà, sarà comprensiva. Pantaloncino Fresco dei Cibo. We'll be right back. E vabbè, sono dei bellissimi deficienti che mi sento di salutare, anche se non penso che ci stiano ascoltando, ma chissà, un giorno magari. È tanto che non ci rincontriamo, ma vi saluto, maledetti cibo deficienti. E proseguendo, arriviamo ai Teen Idles, che sono una delle tante band di Ian McKay. Ian McKay, chiaramente Minor Threat, Fugazi, eccetera, eccetera. È una band formata nel 1979, che resiste un anno e poi si scioglie, dura veramente poco. E Nelson e McKay, due dei Teen Idles, mettono su i Minor Threat, e Strayjack, impronunciabile questo nome, ma chissà, che era il cantante, e invece mette in piedi i Youth Brigade. Quindi insomma direi che hanno proseguito abbastanza bene. Teen Idles, e il pezzo è I Drink Milk. Read the broken book backwards. proposito di cibo, in effetti la scrivania qua di fronte della Wombat Regia è disseminata di resti di patatine fritte. Deve essere passato qualche Wombat qua negli ultimi giorni che le ha sgranocchiate, probabilmente me le ha lasciate come segno per un buon auspicio per la puntata di oggi. E proseguiamo, questi erano i Gone Moon, il brano si chiamava Apple Pie dall'album Liquor's Last Leg del 2007, un album uscito per la Ipecac Recordings che vi ricorderete è l'etichetta di Mike Patton. Oggi parleremo un bel po' di etichette, o perlomeno non ne parleremo in maniera approfondita, ma le sorvoleremo facendovi ascoltare delle produzioni particolarmente interessanti. Proseguiamo con Joanna Newsom, che è un'arpista di cui avevo parlato qualche puntata fa. Le sue canzoni sono spesso delle bizzarre favole, un po', boh, direi, bambinesche, a partire dalla sua vocetta che a me piace un sacco, ve lo devo dire. Il pezzo che ci ascoltiamo è Peach Plum Pear, ovvero pesca, prugna, pera, ed è trattata da uno dei primi album che secondo me poi in realtà è il più bello. Soprattutto sulla fine a me non è piaciuta tanto, ma le vecchie cose io le apprezzo moltissimo. Le interpretazioni qui si sprecano, nel senso che proprio non ha senso cercare di interpretare i testi di Joanna Newsom, soprattutto in questi primi brani, appunto, abbastanza enigmatici. L'unica cosa certa è che Peach Plum Pear è una sorta di conta di Ambarabacci Cicocco, e il resto però invece decidetelo voi. Thank you. Dat was Joanna Newsom met Peach Plum Pear. Zoals ze speelde tijdens haar sessie hier in de studio. Dus met... Sì, c'era anche la fantastica annuncio, il fantastico annuncio della radio, chissà cosa, ma non ero io che improvvisamente ero impazzita. Era così il brano, che simpatia. Ma dopo Joanna Newsom, eccoci a John Fay. John Fay è un altro che, un personaggio che vi ho fatto sentire qualche puntata fa, è un chitarrista veramente, veramente bello. I primi album che ha fatto risalgono più o meno all'inizio degli anni 60. Questo in particolare, l'album è Dance of That and Other Plantation Favorites, il volume 3, perché ne ha fatte altri due, ebbene sì, e il brano è Give Me Cornbread When I'm Hungry, del 1965, ed è un brano che omaggia il testo di Country Blues, un pezzo di Doc Box, che era un suonatore di banjo appalacchiano nato nel lontano 1898, un bluesman quello delle origini degli inizi degli anni 20, quelli con la voce roca e le mani rovinate dal lavoro. Il testo, quello originale di Doc Box, diceva: datemi pane di mais quando sono affamato, whisky di mais quando sono assetato, e questa è l'omaggio che ne fa John Fay. È l'omaggio che fa se mi parte il pezzo, altrimenti non è assolutamente niente, ma ci riuscirò. Eccolo qua. Non è vero. Sì, invece sì. Era solo che avevo abbassato il volume, ma ora c'è, giuro. Eccoci qua, e è venuto il momento del consueto appuntamento con l'agenda della settimana degli spazi liberati fiorentini, che questa settimana in effetti vi propone in particolare l'edizione del 2017 di Inchiostri Ribelli, il festival dedicato alle arti figurative, tatuaggi, fumetti e quant'altro, che da un paio d'anni a questa parte, è iniziato prima al Next Emerson, ma da un paio d'anni a questa parte viaggia itinerante per 4 giorni nei vari, almeno in alcuni vari posti liberati fiorentini. Si inizia con domani, ebbene sì, giovedì 1 giugno alla Polveriera Spazio Comune, dalle 14 in poi live painting a cura di Ribellarti, free live painting su supporti di recupero, DJ set by Machine Funk. Poi banchini di autoproduzioni, fumetti, riviste e pubblicazioni indipendenti. Vi segnalo anche che tra i vari banchini ci sarà il banchino del Wombat, quindi non perdetevelo. Alle 17.30 presentazione di Alice nel Paese delle Domandine e Alice la guardia all'asino bianco, racconti delle detenute di Sollicciano con una delle autrici Agnese Costagli e la curatrice Sarsini, Sarsini. A seguire, presentazione del corso di scrittura creativa a Sollicciano, scrittura d'evasione, con gli insegnanti Frusali Pedron e la curatrice Sarsini, e dibattito. Alle 19, spettacolo teatrale, orazione intima di Gillo Conti Bernini. Dalle 20, aperitivo cena a prezzi popolari, ovviamente. E alle 20.30, performance teatrale lungo il corpo a cura della compagnia Teatro Anatomico. Si finisce in bellezza alle 21 con il concerto dei Jackson Pollock e a seguire dei Reccane e suo marito. Invece venerdì 2 giugno, il giorno successivo, il venerdì in due posti, occupazione Via del Leone e Piazza Tasso a fine e al CSA Next Emerson. In Piazza Tasso dalle ore 14, free live painting su supporti di recupero, DJ set e i vari banchini di qui sopra, nonché torneo di calcetto. In contemporanea, sempre dalle 14 in Via del Leone, all'occupazione, Tattoo Convention, e alle 15.30 presentazione del fumetto La Piattaforma 21 con l'autore Mattia Pagliarulo. Alle 20 aperitivo cena e alle 21 concerto punk Bullshit Idea più LVTN e DeLorean. Invece si prosegue dalle 23, quindi finito il concerto che finirà alle 22, spaccate, quindi siate puntuali. Dalle 23 ci si sposta al CSA Next Emerson con un concerto elettro un po' cupo, un po' new wave, un po' dark, un po' elettronico del Giardino Violetto, gruppo storico romano, e Nato Date e FP, che per l'occasione Nato Date, ve lo ricorderete, il nostro prezioso DJ del Wombat, per l'occasione insieme a FP fanno una jam elettroacustica con varie cosette sfiziose. Sabato 3 giugno, invece, sempre due luoghi, occupazione di Viale Corsica questa volta e CSA Next Emerson, dalle 14 in Viale Corsica, Tattoo Convention, Bacchi Dato Produzioni, e mezz'ora dopo, alle 14.30, inizia il workshop di legatoria a cura di Stampax Serigrafia. Alle 17.30 presentazione del fumetto Macno, la rivoluzione russa in Ucraina, con i coautori. Invece dalle 21 ci si sposta al Next Emerson, e perché alle 21.30 scusate, presentazione di Attraverso con l'autore Luca Kirchiu, e alle 22 concertone direi hip hop con all'inizio Mortal Wombat e più vari altri che DJ set, e poi questo sempre la DJ set, è un po' confondente tutto ciò nel programma, ma ora ce la farò. La DJ set a cura di Mortal Wombat, e in più una selezione vinilica hip hop funky e cerchio ballerino di breakdance by Exchange Cyphers. Ma poi inizia a seguire il concerto con ESA, Aka è il presidente, e Ice One, abbastanza, non direi che non c'è bisogno di presentazioni, che fa un set elettro hip hop breakbeat. Il giorno dopo, l'ultimo giorno di Inchiostri Ribelli, domenica 4 giugno, all'occupazione Viale Corsica e alla vicina area cane autogestita, dalle 14 Tattoo Convention i banchini di qui sopra, alle 14.30 il workshop Game of Chaos, workshop di fumetti, ovvero come creare una fanzina a fumetti in un pomeriggio a cura di Telebrucio. Dalle 17.30 presentazione del libro I Signori della Cenere con gli autori Tersite Rossi. E dalle 14 invece all'area Cani, che poi è lì, quindi potete fare un po' avanti e indietro, live painting dell'area Cani a tema La natura che si riprende la metropoli, tornei di basket, banchini soliti di qui sopra, live painting a cura del collettivo Danaru, asta benefit delle opere realizzate in Piazza Tasso il 2 giugno. E alle 18 concerto hip hop Cillian O'Bridge più Crip Giuliano più Fi Riders più Santa Sangre. E il tutto finirà alle 23 tassative, quindi questo è quanto. Se vi siete persi in tutto questo fiume di parole, vi capisco, mi sono persa anch'io, ma a rinfrescarvi la memoria c'è il sito di riferimento di Inchiostri Ribelli, che è inchiostriribelli.noblogs.org, dove potete trovare tutto il programma di questa 4 giorni per intero e i dettagli di ogni singola presenza e di ogni singolo contenuto. Quindi mi raccomando, ci vediamo questo fine settimana nei vari spazi. Proseguiamo velocemente nella nostra scaletta invece, arrivando ai Rain Like the Sound of Trains, che è un gruppo legato a, infatti l'album è un 7 pollici del 1993 e da cui è tratto uno dei due brani, che è Cooking with Anger, che è un album uscito per la Discord, l'etichetta legata ai Minor Threat e Fugazi, insomma quel giro lì di Washington, più o meno penso che forse li riconoscerete, ma forse no, chissà. Rain like the sound of trains cooking with anger. Thank you. so voi, ma io gli Undertones li ascolterei veramente all'infinito. Questa era More Songs About Chocolate and Girls, l'album era Hypnotized del 1980. Beh, gli Undertones direi che c'è poco bisogno di presentazioni, comunque un gruppo irlandese, irlandesissimo, nato nell'altrettanto irlandesissimo e testarda Derry, Irlanda del Nord, nati nel lontano 1975 appunto. Ma continuiamo, ora vi vorrei proporre due versioni della stessa canzone. Cominciamo però dalla cover, non dall'originale, perché paradossalmente è quella che probabilmente vi suonerà un po' più familiare. Non perché il gruppo che la suona sia famosissimo, i Readymen, ma perché a sua volta è stata oggetto di cover da parte dei Cramps, che, come ho raccontato in un'altra puntata, avevano il pregio di portare alla luce pezzi altrimenti rimasti in ombra. Quindi ci ascoltiamo una di seguito all'altro, The Readymen con Shortening Bread, e a seguire l'originale, che è sempre Shortening Bread ovviamente, di Mississippi John Hart. Put on the skillet, put on the lid, mammy's gonna make it some. Well, mammy, did you baby love the tart inside? The famous did you baby love the tart and bread? Well, mammy, did you baby love the tart inside? The famous did you baby love the tart and bread? Well, I put on the skillet, I put on the lid. The mammy's gonna make you some tart and bread. Yeah, and that ain't all she's a winner do. Mammy's gonna make you some tart and do. Ah, mammy, did you baby love the tart inside? Famous did you baby love the tart and bread? Yeah, mammy, did you baby love the tart inside? A few little children are lying in bed. I want them to see in the automobile. I call the doctor, here's what he said. Give them dot and bread. Baby, baby, love the child in shot. Famous, you baby, love the child in bread. Well, a man, you baby, love the child in shot. Famous, you baby, love the child in bread. Go! I filled my pockets with a shortening bread. I went to the corner that I stood on my head. And there I stood and ate my darkened bread. Ah, baby, did you baby love the darkened shot? Famous, did you baby love the darkened bread? Well, baby, did you baby love the darkened shot? Famous, did you baby love the darkened bread? I put on a spit, I put on a lid. A mammy's gonna make you some darkened bread. Yeah, and that ain't all she's a winner do. Mammy's gonna make you some diamond do. Ah, mammy, did you baby love the darling job? Famous, did you baby love the darling bread? Yeah, mammy, did you baby love the darling job? Famous, did you baby love the darling bread? Darling bread, darling bread. Put on the lid, mama gonna cook some shortening bread. Old family love shortening bread. Two little boys laying in the bed, one turned over and the other one said, my mama cooked shortening bread. Thank you. drinking off that lead. Boy, he, the whole family loves Charlie and Brad. Ci distacchiamo tantissimissimo dalle sonorità in cui eravamo entrati con questi ultimi due pezzi, perché ci ascoltiamo una one man band pregiatissima, ovvero Mister Occhio. Occhio noto un po' a tutti come ex cantante dei Fichissimi. E vabbè, obiettivamente, altro che fuori cervelli, Mister Occhio ormai se ne vive dall'altra parte del mondo e purtroppo non ce lo possiamo più sentire dal vivo. Si dice che dobbiate andare fino in Madagascar per potervi vedere il suo prossimo live imminente. Giuro, davvero, prenotate i biglietti, anche perché noi pochi fortunati che l'abbiamo visto possiamo dirvi, a voi poveracci, che effettivamente è molto molto bello da vedere, soprattutto live, al di là dell'ascolto da vinile, perché effettivamente ha pubblicato un vinile, sì, Hard Boiled 2010, da cui è tratto questo pezzo che ci andiamo a sentire, dal titolo perfettamente calzante con la nostra trasmissione, che è Palline di Gelato. Per rimanere sulla nostalgia e sui gruppi torinesi che purtroppo non ci delizzano più, vi faccio ascoltare adesso i Red Room, diciamo attivi all'inizio del 2000 e poi purtroppo non più. Beh, io in realtà vi devo dire, mi manca moltissimo questo gruppo torinese, è durato troppo poco, a me piaceva un sacco. L'album è The Red Room, appunto, omonimo del 2006, e il pezzo, ovviamente, visto il tema, è Invito a cena. Nelle ore delle feste, una vita piena di tuoi, non ti prima di niente, tu non sei contenti, noi vivi nel loro merito, a poco ascolti, cerchi, vieni di avidità, avidità. Sarà di tutto sull'invito. When the soldiers arrived, related an eyewitness, the population fled. Only two old men remained, along with two women. One of these was very young, and the other was a mother suckling her baby and holding by the hand an 8-year-old girl. The soldiers asked for money and opium. When they could not make themselves understood, they became furious and knocked down one of the old men with their rifle butts. Then two, who were already drunk when they arrived, began to amuse themselves by roasting the other old man over a wood fire. In the meanwhile, the others busied themselves by raping the two women along with the 8-year-old girl. When they wearied of that, they murdered the child. At this point, the mother was able to run away with her infant, where from a distance of 100 yards, she watched her companion being tortured. Dopo questo, arrivati freschi freschi alla consueta rubrica che si era interrotta nella scorsa puntata perché c'era troppe cose da dire sul Lynch, ma oggi abbiamo un po' più di tempo e quindi riprendiamo la nostra rubrica di rassegna stampa di Arcorella 2000. Vi ricordo la fonte ufficiale arcorella2000.wordpress.com e un paio di settimane fa, risale questa sconvolgente notizia, ovvero Steve Ignorant annuncia la sua adesione al Movimento 5 Stelle. Vi leggo l'articolo per intero perché insomma è abbastanza scioccante. L'ex frontman e portavoce degli storici Cress, Steve Ignorant, ha annunciato oggi il suo ingresso onorario nel Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. L'artista, che da tempo era sembrato abbandonare il suo retroterra anarchico a favore di posizioni più liberiste, come testimonia la sua battaglia contro il sito anarchopunk.net, che forniva il download gratuito in download gratuito sui suoi pezzi, si era recentemente avvicinato in Gran Bretagna al movimento anti-europeista di Farage, ma come ha dichiarato oggi, è stato folgorato dalle battaglie sostenute dai pentastellati, in particolare quelle legate a terra piatta e complotti alieni, dopo che suo figlio, in seguito a un vaccino, avrebbe contratto un insano amore per l'hip hop. Per questo motivo il cantante, tuttora in attività, ha annunciato che da oggi si servirà di un nuovo pseudonimo, Steve Chemtrails. Non è ancora dato sapere cosa comporterà questa adesione a livello pratico, dato che l'artista è un cittadino britannico, quindi non candidabile. Ma voci informate già parlano di una colonna come opinionista sul blog di Grillo e, artisticamente, di uno split di Spoken Word con il noto cantante complottista Povia. Bene, bene, dopo questa incredibile e drammatica notizia, ci ascoltiamo quindi giusto, giusto i Cress. Cress con Salt and Pepper, che però in realtà è un pezzo parlato ma mischiato insieme a So What, ed è la conclusione del disco Christ the Album, uscito nel 1982. Si tratta di due LP, il primo contiene pezzi registrati in studio e il secondo una raccolta di live. È un pezzo un po' bizzarro, ma d'altronde i Cress ci hanno abituato a diverse bizzarrie, non ultime quelle che di cui vi abbiamo parlato, drammatiche. Quindi Salt and Pepper, preceduta da So What dei Cress. What people are going to say or think about you, then you better forget it now, because whatever you do, they're going to slake you off and criticise you into the ground. They're so fucking comfortable in their neat, trendy outfits. It's so easy for them to write us off as they sit there sipping their tea and marines. Nice idea. Bollocks. They don't want us causing waves on their calm waters. They don't want to think about anything. They don't want to have to deal with anything. They numb themselves with TV, space out on coke and dope, wall themselves in with their wealth and possession, and then put us down from their fucking ivory towers. They don't want the shit at the bottom of their barrel to be exposed. They don't want their crappy lies brought to the surface. They know it's shit, and I know it's shit, and you know it's shit. We all know it's shit. But they won't admit to themselves that all the fun they have, all the style they've got, is just that same old shit covered with a layer of talcum powder. Hello. Hello. The only criticism of that was the bollocks. Do you prefer it as an aside, Steve? What, that sort of bollocks? You just sort of went bollocks like that, rather than, you know, sort of slightly, you know, more shove-off one. Yeah, I sort of thought it worked better like that, sort of sit there sipping their tea Maria's. Nice idea, bollocks. Yeah. But, I mean, just drop the bollocks in, really. Do you want to do it all again, then? It's alright for you, you've only got a slang box for it, yeah? You ready? Ready. They don't want the shit at the bottom of their barrel to be exposed. They don't want their crappy lies brought to the surface. They know it's shit, and I know it's shit, and you know it's shit. We all know it's shit. But they won't admit to themselves that all the fun they have, All the style they've got is just that same old shit covered with a layer of talcum powder. It's pepper. Pepper smells like shit. E questi erano i Crass, ma mi sono anche dimenticata che, cioè mi sono ricordata ora che non vi avevo annunciato il brano precedente, che era Bread and Circuits, cioè il gruppo era Bread and Circuits, il brano era Nuremberg Principles, l'album è del 2003, uno split con former members of Alphonsin, e Bread and Circuits sono un gruppo del circuito dell'Ebullition, altra etichetta fondamentale su cui magari un giorno farò una puntata apposta. Ma non oggi, perché adesso è giunto il momento della conclusione per Slick Chick di oggi. E per riposarci un attimo, tranquillizzarci, perché in effetti vi ho fatto dimenare, penso, un po', adesso ci sentiamo gli Slint, chiudiamo in bellezza e tranquillità con questo mare placido che ci offrono gli Slint. L'album è Spiderland del 1991 e il brano è For Dinner, ovviamente. E questo era tutto per la puntata di oggi dedicata al cibo di Slick Chick, sempre su Radio Wombat. Vi invito tutti a passare da Inchiostri Ribelli una di queste giornate e incontrarci al banchino o ascoltare comunque pezzi delle nostre dirette e comunque sia, altrimenti o lo stesso ci ascolteremo sempre da questi microfoni mercoledì prossimo per una nuova puntata di Slick Chick, sempre su Wombat Radio. Ciao ciao!